Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. C'erano solo loro sulla montagna, a volare nell'aria euforica e pungente. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Stiamo per raccontarvi I segreti di Brokeback Mountain, di Ang Lee. È la storia dell'amore segreto e tormentato tra due cowboy del Wyoming, Ennis e Jack, divisi dai pregiudizi di un mondo chiuso e bigotto. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Provenivano da due piccole, misere fattorie agli angoli opposti dello stato. Jack Twist da Lightning Flat, su a nord, a ridosso del Montana. Ennis del Mar dai dintorni di Sage, presso il confine con lo Utah. Entrambi avevano lasciato la scuola alle superiori, senza prospettive, usi al lavoro duro e alle privazioni. Ennis, allevato dal fratello e le sorelle maggiori da quando i genitori erano finiti fuori strada nell'unica curva della Dead Horse Road, lasciando $24 in contanti e un ranch gravato da due ipoteche, a 14 anni aveva ottenuto una patente speciale per poter frequentare le superiori, a un'ora di viaggio dal ranch. Nel 1963, quando incontrò Jack Twist, Ennis era fidanzato con Alma Beers. Tutti e due, Jack ed Ennis, dicevano che stavano mettendo da parte quattrini per comprarsi un pezzetto di terra. Nel caso di Ennis, i risparmi erano rappresentati da una scatola di tabacco con dentro due biglietti da $5. Se è un lavoro che volete, fate almeno lo sforzo di venire dentro a sentire che cosa ho da dirvi. Quella primavera si erano iscritti all'ufficio di collocamento per lavori agricoli e si trovarono accoppiati sulla carta come pecoraio e addetto al campo per lo stesso incarico stagionale, a nord di Signal. Su a Brokeback Mountain è la guardia forestale che decide dove vanno sistemati gli accampamenti. Devono essere almeno a 5 km dai pascoli che ci danno in concessione. Ma se non c'è nessuno a sorvegliare le pecore, i predatori fanno festa. Quindi mi serve un uomo che stia fisso all'accampamento. Così facciamo contenti quelli della forestale e ci lasciano in pace. E poi un guardiano vero. Per Jack Twist sarebbe stata la seconda estate su in montagna. Per Ennis, la prima. Nessuno dei due aveva ancora 20 anni. Le veneziane sbilenche lasciavano entrare un triangolo di luce bianca in cui si muoveva la mano dell'intendente. Joe Aguirre, capelli ondulati, color cenere di sigaretta, spiegò come la vedeva lui. Dovrai stare sempre al pascolo a tenere d'occhio il gregge e dormire lassù in una piccola tenda. A colazione e a cena scenderai all'accampamento, ma dormirai ogni notte insieme alle pecore. Niente fuochi, niente tracce in giro, e smontare la tenda tutte le mattine. Hai i cani da guardia, hai il tuo fucile, non ti muovi di là. L'anno scorso ho perso una pecora su 4, non deve più succedere. Si rivolse a Ennis, notando i capelli ispidi, le grosse mani segnate, i jeans strappati e la camicia con i bottoni mancanti. Tu, invece, ti farai trovare al punto ogni venerdì a mezzogiorno, con i muli e la lista delle provviste. Ci sarà uno con un camioncino. Ti darà tutto quello che vi occorre. A prima vista, Jack risultava abbastanza un bel ragazzo, con i capelli ondulati e la risata pronta. Ennis, naso aquilino e volto stretto, era smilzo, con il torace un po' incavato, un torso modesto su lunghe gambe a compasso, un fisico asciutto e agile fatto per i cavalli e per la lotta. Jack Twist. Ennis. Un cognome non te l'hanno dato? Del Mar. Piacere, Ennis del Mar. È il mio secondo anno quassù. L'estate scorsa, per un temporale, sono morte 40 pecore. C'era un tanfo da morire asfissiati. E Aguirre mi ha mangiato vivo. Come se il brutto tempo fosse colpa mia. Comunque, meglio che lavorare per mio padre. Quello è impossibile accontentarlo. Anche i tuoi sono gente di campagna. Lo erano. Come mai se ne sono andati in città? Ma che città? Se ne sono andati e basta. C'era una curva. L'unica curva in 60 km di strada. Sono andati dritti. Occhio, fa attenzione. Quella bestia ha un brutto carattere, mi sa. Non mi faccio buttare giù da una puledra. Andiamo o vuoi star lì fino a stasera a fare nodi? Montarono la tenda sulla grande piattaforma del servizio forestale. Sistemarono la cucina e le provviste di cibo. Dormirono entrambi al campo quella prima notte. E Jack già brontolava per l'ordine di Joe Aguirre. Dormirai ogni notte insieme alle pecore. Niente fuoco, niente tracce in giro. E smontare la tenda tutte le mattine. L'alba giunse di un vivido arancione macchiato in basso da una gelatinosa fascia verdolina. La massa fosca della montagna poco a poco impallidì, fino ad assumere il medesimo colore del fumo che si alzava dal fuoco su cui Ennis preparava la colazione. Ah, ma cambierà. Non vedo l'ora di avere una fattoria tutta mia e poter mandare Aguirre a quel paese. Anch'io sto mettendo dei soldi da parte. Quando avrò finito qui, io e Alma, la mia ragazza, ci sposiamo. A me non va giù di stare con le pecore, ma senza accendere il fuoco. L'aria fredda si addolcì. Ciottoli striati e grumi di terriccio disegnarono a un tratto ombre lunghe come una matita, e gli svettanti pini sotto di loro si fusero in lastre di cupa malachite. Durante il giorno, Ennis lanciava occhiate attraverso quell'ampia distanza. E a volte scorgeva Jack, un puntolino che si muoveva attraverso un prato su in alto, come un insetto su una tovaglia. Jack, nella sua tenda buia, individuava Ennis come un fuoco nella notte, una favilla rossa sull'enorme ombra nera della montagna. Jack un pomeriggio arrivò in ritardo. Scolò le sue due bottiglie di birra tenute in fresco in una sacca bagnata sul lato in ombra della tenda, mandò giù due scodelle di stufato, quattro focacce cotte sulla pietra da Ennis, un barattolo di pesche, si arrotolò una sigaretta e rimase a guardare il sole che calava. Per un'ora tennero a bada la notte con la luce gialla della lampada a cherosene. E verso le 10 Ennis si mise in marcia con Sigar Butt, un cavallo in gamba a muoversi nel buio, nel baluginio della brina, per raggiungere le pecore, portando con sé le focacce avanzate, un barattolo di marmellata e uno di caffè per il giorno dopo. Voleva risparmiarsi il viaggio, disse, e restare lassù fino all'ora di cena. Tornato dalla giornata di lavoro, Ennis si cavò stivali e jeans. Poi finalmente cenarono accanto al fuoco. Basta fagioli! Stavano seduti con la schiena appoggiata a un tronco, a scaldarsi le suole degli stivali e i ribattini dei jeans. Bere, fumare sigarette, buttare ramette sul fuoco per continuare a chiacchierare. Parlavano di cavalli e rodei, zuffe, botte prese e date, i cani avuti e conosciuti, il servizio militare, il ranch di Jack dove il padre e la madre ancora tenevano duro, la fattoria della famiglia di Ennis in abbandono da anni. Ognuno rispettava le opinioni dell'altro, ben contenti di aver trovato buona compagnia là dove non c'era da farci conto. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Sei un grande! L'hai centrato! Ero stufo di vederti sbagliare. Muoviamoci, dai! Meglio non farci beccare dai guardiacaccia. Ennis, mentre tornava dalle pecore cavalcando controvento nella luce insidiosa e ubriaca, pensò che mai si era trovato tanto bene. Gli pareva quasi di poter cancellare il bianco della luna. L'estate avanzò e loro condussero il gregge in un nuovo pascolo. Spostarono il campo. La distanza tra le pecore e loro adesso era maggiore. Il viaggio notturno più lungo. 4 ore al giorno, 2 per venire giù e 2 per tornare su. Scendo per colazione, poi torno dalle pecore. La sera le metto a dormire. Scendo ancora per cena. Poi torno dalle pecore, e passo la notte a tenere lontani i coyote. Aguirre non può rovinarmi la vita così. Annie scavalcava senza fatica, dormendo a occhi aperti, ma le ore che trascorreva lontano dalle pecore si allungavano sempre di più. Jack traeva un ronzio stridulo dall'armonica e Annie aveva una discreta voce aspra. La tenda non è a posto. Tanto non va da nessuna parte. Fregatene. Neanche la tua armonica sembra tanto a posto. Si è ammaccata quando quella puledra mi ha disarcionato. Sì? Non dicevi che a te non succede mai? Beh, ha avuto fortuna. Io un po' meno, visto che l'armonica non si è spaccata in due. Beh, io vado, torno dalle pecore, disse Ennis, sbronzo da non reggersi in una fredda ora in cui la luna aveva passato le due. Non riesci neanche a alzarti in piedi, è troppo tardi per andare su. Dammi retta. Ce l'hai una coperta che ti avanza? Perché quasi quasi mi stendo un po' qui e faccio un sonnellino. E appena c'è luce mi metto in marcia. Quando si spegnerà il fuoco morirai di freddo. Grazie, Jack, grazie. È meglio se dormi nella tenda. Sì, sì. Come vuoi. Dentro la tenda il sacco a pelo era grande e caldo e di lì a poco approfondirono notevolmente la loro amicizia. Ennis andava a tutto gas su tutte le strade, che si trattasse di sudarsela o di spassarsela, e non volle saperne quando Jack gli prese la mano sinistra portandosela attorno alla vita. Ennis strappò via la mano come se avesse toccato il fuoco. Il sesso fra loro fu sbrigativo e silenzioso. Poi giù a dormire. Go to sleep, may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms for one more night. I've this crazy old notion that calls me sometimes, saying this one. Ennis si svegliò nel rosso dell'alba con i calzoni ancora attorno alle ginocchia, un mal di testa da non vederci e Jack a ridosso della sua schiena. Senza bisogno di dir niente, entrambi sapevano come sarebbe andata per il resto dell'estate e al diavolo le pecore. Non parlarono mai della cosa, lasciavano che accadesse, dapprima solo nella tenda di notte, poi in pieno giorno con il sole caldo che picchiava e la sera, nel bagliore del fuoco. I love that. Spiccia, rude, con risate e grugniti. I rumori non mancavano, ma senza mai farne mezza parola, salvo una volta che Ennis disse: è una cosa che comincia e finisce qui. Io non sono così. Nemmeno io. C'erano solo loro sulla montagna, a volare nell'aria euforica e pungente. Si credevano invisibili. Non sapevano che una volta il loro capo, Joe Aguirre, li aveva osservati per 10 minuti attraverso il suo binocolo, aspettando che si fossero riallacciati i jeans. La montagna ribolliva di forze demoniache, inondata da sprazzi intermittenti di luce che pioveva dagli squarci tra le nuvole. Il vento strigliava l'erba e risuonava con un rombo sordo tra la vegetazione stenta e gli spacchi nei massi. Se non vado su, le pecore si disperderanno! Col temporale rischi che il cavallo ti disarcioni! Vedrai se non ha ragione! Chiudiamo! È una parola! La prima neve arrivò presto, il 13 di agosto. Uno strato alto quasi due spanne, ma poi si sciolse in fretta. La settimana dopo, Joe Aguirre mandò l'ordine di riportare giù le pecore. Un'altra burrasca ancora più grossa stava arrivando dal Pacifico e loro chiusero la partita e con il gregge lasciarono la montagna, incalzati dai sassi che rotolavano giù contro i calcagni, nubi viola che premevano da ovest e l'odore metallico della neve vicina. Joe Aguirre li pagò senza tanti commenti. aveva osservato con espressione acida le pecore brulicanti dicendo: alcune su con voi non ci sono mai venute e comunque speravano ne tornassero di più. Voi della pianura siete dei buoni a nulla. E neanche il numero era quello che aveva sperato. Le braccia di fattoria non fanno mai un gran lavoro. Old stories I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road, king of the road. Ci sarai l'estate prossima? Chiese Jack, in strada, un piede già sul furgoncino verde. Il vento soffiava duro e freddo. Te l'ho detto, io e Alma ci sposiamo a novembre. Vedrò se mi prendono in qualche fattoria. E tu? Pensavo di andare a casa dei miei e dargli una mano per l'inverno. Ma poi magari torno, se riesco a evitare il militare. Può capitare di rivedersi? Certo, certo. Un turbine di sabbia si alzò a velare l'aria di pulviscolo sottile e Ennis socchiuse gli occhi. Si scambiarono una stretta di mano, una pacca sulla spalla e poi ci furono 15 metri di distanza tra loro e si poteva solo partire in direzioni opposte. Dopo un chilometro o due, per Ennis fu come se qualcuno gli stesse cavando lentamente le budella, un metro alla volta. Accostò al bordo della strada, cercò di vomitare, ma non tirò su niente. Stava male come non gli era mai capitato, e ci volle parecchio prima che quella sensazione se ne andasse. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In dicembre, Ennis sposò Alma Beers e a metà gennaio la mise incinta. Si trovò qualche breve ingaggio in alcuni allevamenti. Poi andò come cavallaro al vecchio Elwood High Top. Ancora lavorava là, in settembre, quando Alma Junior, come lui chiamava sua figlia, venne al mondo e la stanza da letto fu impregnata dall'odore di sangue vecchio e latte e cacca di bebè. E risuonò di strilli e rumori di poppate e dei mugolii di Alma nel sonno, tutti a promettere fecondità e perpetuazione di vita. Così da poter parlare. Come stanno le mie bambine? Cosa è successo? Bene. Alma Junior ha ancora il naso che cola. Quando Hightop chiuse, Ennis passò alla manutenzione delle strade. Nacque una seconda bambina e Alma volle trasferirsi in città, vicino all'ospedale. La piccola soffriva d'asma. Ci pensi tu a soffiarle il naso? Mi ci vorrebbero tre mani! Dai, su. Allora. Arrivò la quarta estate dopo Brokeback Mountain e in giugno Ennis ricevette in fermo posta una lettera di Jack Twist, il primo segno di vita in tutto quel periodo. Amico, era ora che ti scrivessi. Spero che questa lettera ti arrivi. Ho saputo che stai a Riverton. Passo di lì il 24. Pensavo di fare tappa e offrirti una birra. Mandami una riga se puoi. Sì, ci sarai. La lettera veniva da Childress, Texas. Ennis rispose che poteva scommetterci e aggiunse il suo indirizzo. About the time my daddy left for fight the big war, saw my first pistol in the general store. In the general store, I was 13. Thought it was the finest thing I ever had seen. That's a bag of ammo, some dough when I grew up. Mama dropped a dozen eggs, she really blew up. She really blew up. Didn't understand. Mama says a pistol is the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama says a pistol is the devil's right hand. Email audiogrammi at radio24.it. La giornata era stata calda e tersa la mattina, ma a mezzogiorno delle nubi erano arrivate da ovest, sospingendo davanti a loro un certo soffoco. Ennis, con la sua camicia migliore, bianca a grosse righe nere, non sapeva a che ora sarebbe arrivato Jack, e così si era preso tutta la giornata libera. Camminava su e giù scrutando dalla finestra la strada bianca di polvere. Nel tardo pomeriggio, col brontolio del tuono, comparve il vecchio furgoncino verde, sempre quello, e vide Jack scenderne, il cappello spinto all'indietro dal vento. Una scossa rovente attraversò Ennis, che un attimo dopo fu sul pianerottolo chiudendosi la porta alle spalle. Non ci speravo più a quest'ora. Jack faceva gli scalini a due. Accidenti a te. Si afferrarono per le spalle, si abbracciarono poderosamente, togliendosi il fiato. Poi si baciarono. Il cappello di Jack cadde a terra. L'ispido delle barbe a raschiare. La porta alle loro spalle si aprì. Alma guardò per qualche istante le spalle tese di Ennis e richiuse l'uscio. E loro ancora avvinti nell'abbraccio, montandosi reciprocamente sui piedi fino a che si lasciarono per respirare. Ed Ennis, poco portato alle tenerezze, disse quello che diceva ai suoi cavalli e alle figlie. Piccolo mio. Salirono in casa. La porta si socchiuse di nuovo e Alma si delineò nella striscia di luce. Alma, ti presento Jack Twist. Jack, mia moglie Alma. Piacere. Piacere. Finisco il mio disegno. Ah, hai una figlia? Sì, anzi ne ho due. Alma Junior e Jenny. Io ho un maschio. Ah, sì? Ha 8 mesi e mezzo. Sempre allegro. Partirono con il furgone di Jack. Comperarono una bottiglia di whisky e 20 minuti dopo erano al motel Siesta. Alcune manciate di grandine crepitarono contro la finestra, seguite dalla pioggia e da un vento infido che fece sbattere la porta della stanza accanto allora e per tutta la notte. Incredibile. Sì, 4 anni. Tutta colpa di quella montagna. Che cosa facciamo adesso? Non c'è molto da fare. Ho troppe cose che mi tengono legato. È inutile. Te l'ho già spiegato. Non potrà mai essere così. Tu hai una moglie e un bambino giù in Texas. E io ho la mia vita a Riverton. Quella con Alma tu la chiami vita? Oh, Alma, devi lasciarla stare, non c'entra niente. Il fatto è che se noi due stiamo insieme e questa cosa ci capita di nuovo, nel momento sbagliato o nel posto sbagliato, siamo morti. Ti racconto una storia. C'erano due uomini che avevano una fattoria giù al paese. Earl e Rich. Li prendevano tutti in giro, anche se erano due tipacci dalla pelle dura. Fatto sta che un giorno trovano Earl morto in un fosso di irrigazione. Due uomini che vivono insieme, non va bene. One more chain I break. Does the maker make Tra Ennis e Alma si produsse una lenta erosione. Non veri attriti, solo una crepa che si allargava. Lei faceva la commessa in un negozio di alimentari. Diceva che avrebbe dovuto sempre lavorare per pagare i conti che lo stipendio di Ennis non copriva. Anno dopo anno il suo risentimento si dilatava. L'abbraccio a cui aveva assistito, Ennis che una o due volte l'anno andava a pesca insieme a Jack Twist e mai una vacanza con lei e le bambine, la sua riluttanza ad andare fuori a divertirsi un po', la sua smania per il lavoro al ranch, tante ore e pochi quattrini, la tendenza a girarsi verso il muro e addormentarsi non appena toccava il letto, il rifiuto di cercarsi un impiego decente, stabile presso la contea o l'azienda elettrica, la fecero sprofondare in una lunga, lenta caduta. Alma! La cena è pronta, basta scaldarla! Mangiamo solo se ci servi tu! Ormai ho promesso di andare a fare un turno extra! E chi se ne frega, digli che ti sei sbagliata! Alma, per la miseria! Alma! E quando Alma Junior ebbe 9 anni e Francine 7, lei divorziò da Ennis e sposò il padrone del negozio. La custodia delle due minori Alma Del Mar Junior e Jennifer Del Mar viene assegnata alla madre. Il padre corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento la somma di $125 mensili per ciascuna delle due figlie fino al raggiungimento del 18° anno di età. Ennis riprese a lavorare negli allevamenti. Un ingaggio qui, uno là, senza far molta strada, ma contento di ritrovarsi di nuovo tra il bestiame, libero di mollare e andarsene quando gli pareva, partire da un giorno all'altro per le montagne. Non provava vero rancore, solo la vaga sensazione di essere stato imbrogliato, e dimostrò che era tutto liscio andando alla cena del ringraziamento da Alma e il suo negoziante, seduto tra le due ragazzine a chiacchierare di cavalli, cercando di non fare il papà triste. Dai, raccontaci di quando a quel rodeo hai montato un cavallo selvaggio. Beh, non c'è molto da raccontare. Sono riuscito a stargli in groppa 3 secondi. E poi, senza neanche accorgermene, ho cominciato a volare. Solo che non ero un angelo come voi due. Non avevo le ali. Dopo la crostata, Alma lo chiamò in cucina. E mentre eliminava gli avanzi dai piatti, disse che era in pensiero per lui. Faresti bene a risposarti. Io e le bambine siamo preoccupate che resti solo. Quando si rimane scottati... Quella sera al bar, Ennis si sbronzò, attaccò briga e se ne andò. Per parecchio tempo non cercò di rivedere le figlie, dicendosi che sarebbero andate a cercarlo quando avessero avuto l'età e il buon senso di venir via da Alma. Non erano più giovanotti con tutta la vita davanti. Jack si era ingrossato di spalle e di fianchi. Ennis era sempre smilzo come un paletto. Andava attorno con stivali scalcagnati, jeans e camicia estate e inverno, aggiungendo una giacca di tela quando faceva freddo. Un'escrescenza benigna gli era comparsa su una palpebra, dandole un aspetto cascante. Una frattura al naso si era saldata un po' storta. Per anni e anni si aggirarono tra i pascoli alti e le valli dei fiumi, ma senza mai tornare a Brokeback. Giù in Texas il suocero di Jack morì e la moglie Lorraine, che aveva ereditato l'azienda di attrezzature agricole, si rivelò molto in gamba a mandarla avanti e a combinare affari. Jack si ritrovò a frequentare le mostre di bestiame e di macchinari, provvisto di una vaga qualifica di direttore. Adesso disponeva di un po' di soldi e trovava il modo di spenderli nei suoi viaggi di acquisti. Nella sua parlata si infilò un leggero accento texano. Si era fatto limare e incapsulare gli incisivi, diceva che non era stato doloroso e si vestiva alla texana, con un gran cappello bianco. When I feel that lonesome prairie wind, I let my soul get back to you again. But I will never let you, I will never let you, I will never let you go. Even though this wasn't meant to be, it's gonna break my heart to watch you leave. But I will never let you, I will you, I will never let you go. Why I'm feeling so, so alone. I will never let you, I will never let you, I will never let you go. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Nel maggio del 1983 trascorsero insieme alcuni giorni freddissimi presso certi laghetti d'alta quota, gelati e anonimi. Poi passarono nella valle dell'Ostrio River. Mentre risalivano, la giornata era tersa, ma il sentiero coperto di neve alta era fradicio ai margini. Lo abbandonarono per prendere una scorciatoia attraverso un tratto dove la vegetazione era stata abbattuta, conducendo i cavalli tra i rametti residui. E Jack alzava la faccia nel sole intenso del mezzogiorno, per respirare l'aria profumata di resina di pino, di aghi secchi frantumati e rocce calde, e del ginepro calpestato dagli zoccoli dei cavalli. Ennis, che aveva l'occhio esperto, cercò a occidente tracce dei cumuli caldi che potevano formarsi in una giornata come quella. Ma l'azzurro intatto era così azzurro, disse Jack, che a guardare in su ci si poteva anche annegare. Il fiume color tè correva veloce con il disgelo, una sciarpa calda di spuma a ogni roccia affiorante, pozze e vortici gonfi. I salici dei rami color ocra ondeggiavano rigidi. I cavalli andarono ad abbeverarsi e Jack smontò, raccolse l'acqua gelata nelle mani, gocce cristalline a grondare dalle dita, bocca e mento lucidi. Non hai mai la sensazione, non lo so, che quando sei a casa tua qualcuno ti guardi strano, come se sapesse. E anche per strada ti guardano tutti come se sapessero anche loro. Forse te ne dovresti andare, no? Trovare un altro posto in cui stare, magari il Texas. Il Texas? Come no, potremmo anche convincere Alma a lasciarci adottare le mie figlie. E poi vivere tutti insieme pascolando pecore. A mantenere la baracca penserebbe tuo suocero. E dai rubinetti uscirebbe il miele. Bravo Jack, un'idea geniale, complimenti. Vaffanculo, Ennis. Vuoi continuare a vivere come un povero Cristo? Beh, d'accordo, fa pure. Bene. Pensavo solo ad alta voce. Una bella pensata, veramente. Che cazzo, ho sempre una risposta per tutto. Accidenti a lui. Montarono il campo senza parlare molto e legarono i cavalli nel prato. Jack ruppe il sigillo di una bottiglia di whisky, rimise il tappo e la lanciò a Ennis. Stanotte nevica di sicuro. Sì. La terza mattina comparvero le nubi che Ennis si aspettava, grigie e veloci da ovest, un fronte scuro che sospingeva davanti a sé vento e minuscoli fiocchi. Com'è che non hai trovato una con cui risposarti? Per la verità, da un po' mi sto vedendo con una tipa piuttosto carina di Riverton. Lavora in un bar, ma vorrebbe fare un corso da infermiere. Jack disse che si era separato da Lorin. Aveva in ballo una faccenda con la moglie di un allevatore vicino a casa sua, a Childress, e negli ultimi mesi se n'era andato in giro guardandosi sempre le spalle, aspettandosi una pallottola da Lorino o dal marito. Ho una relazione clandestina con la moglie del fattore di una grossa azienda agricola. Ogni volta corro seriamente il rischio che Lorino e il marito mi sparino. Beh, vorrà dire che forse te lo meriti. I cavalli nitrirono nel buio al di là del bagliore del fuoco. Ennis passò un braccio attorno alle spalle di Jack, lo attirò a sé e gli raccontò che vedeva le figlie circa una volta al mese. Il fatto è che in certi momenti mi manchi così tanto che ho paura di non farcela. I don't wanna make it rain. just want to make it simple. I don't want to see the light. I just want to see the flashlight. Un paio di giorni dopo, al parcheggio all'imboccatura del sentiero, i cavalli già sui rimorchi, Annie sarà pronto a partire per tornare a Signal. Jack diretto al Lightning Flat a trovare il suo vecchio. Ennis si avvicinò a Jack e disse quello che per tutta la settimana aveva rimandato. Prima che ci salutiamo ti devo dire una cosa. Fino a novembre mi sarà difficile tornare qui. Capita proprio in mezzo, dopo aver mosso il bestiame, prima che cominci il pascolo d'inverno. Non ci posso credere. Hai avuto una settimana, ti fosse uscita una parola. Il tono era rancoroso e accusatorio. Si raddrizzò lentamente sfregandosi la fronte. Nel rimorchio un cavallo scalpitò. Come grandi nubi di vapore da una fonte termale in inverno, gli anni di cose non dette e non dicibili adesso, ammissioni, dichiarazioni, vergogne, colpe, lacrime, si innalzarono attorno a loro. Ennis restò immobile come colpito al cuore. Ho fallito in tutto, non valgo niente. Ennis, lasciami stare! Calmati. Calmati. Cazzo, Ennis. Non ce la faccio più, Jack. Non ce la faccio più. Il volto grigiastro e segnato, contratto, gli occhi serrati, i pugni stretti. Poi le gambe cedettero. Lui cadde sulle ginocchia. Si abbracciarono e raccolsero le cose rimettendole più o meno come erano prima. Perché in quel che si erano detti non c'era niente di nuovo. Niente di finito, niente di iniziato, niente di risolto. Get along, little doggies. Get along, little doggies. Get Per mesi Ennis non seppe dell'incidente, fino a che la cartolina mandata a Jack tornò con la stampigliatura deceduto. Formò il numero di Jack a Childress. Fu Lorina a rispondere. Pronto? Pronto, sono Ennis del Mar. Chi, scusi? Può ripetere? Ennis del Mar. Un amico di Jack. Ah sì, Jack mi parlava di lei. Andavate a pesca? O a caccia, forse, fa lo stesso. L'avrei avvertita senz'altro, ma purtroppo non mi ricordavo il suo cognome e non avevo l'indirizzo. Per questo ho chiamato, per sapere cosa è successo. Come no, certo. Stava gonfiando la gomma di un trattore in una stradina di campagna e la gomma tutta un tratto è scoppiata. Un brandello del copertone è andato a colpirlo in pieno viso, rompendogli la mandibola e il setto nasale, scaraventandolo a terra privo di conoscenza. Quando l'hanno trovato era già morto, annegato nel proprio sangue. Non aveva nemmeno 40 anni. Pronto? Pronto? Pronto? No, pensò lui. Lo hanno ucciso. Qui non li vogliono quelli diversi. La sconfinata tristezza delle pianure settentrionali gli precipitò addosso. Sapeva con certezza com'era andata. Lo avevano ucciso con il cacciacopertoni e non in un incidente. Proprio come era successo ai due uomini che vivevano insieme. È stato sepolto lì. Abbiamo messo una lapide. Lui è stato cremato come avrebbe voluto. Metà delle ceneri sono rimaste qui e il resto è stato spedito alla famiglia. Diceva sempre che voleva che le sue ceneri fossero disperse a Brockback Mountain. Però io non ho la minima idea di dove sia. Può darsi che si trovi dalle parti in cui è cresciuto, chi lo sa. Ma conoscendo Jack... potrebbe essere un posto immaginario, dove volano uccelli d'oro e dalle rocce sgorga il whisky. Lungo la strada sconnessa, Annie passò davanti al cimitero cintato da una rete floscia. Un piccolo riquadro cintato nella grande prateria. Poche tombe variopinte di fiori di plastica. E non volle pensare che Jack era finito là, sepolto in quella malinconica pianura. Qualche settimana dopo, un sabato, buttò sul retro del furgone le coperte sudice dei cavalli e le portò all'autolavaggio rapido per passarle con il getto ad alta pressione. Dopo averle ricaricate sul pianale, pulite e bagnate, entrò nell'emporio e si mise a passare in rassegna all'espositore delle cartoline, fino a trovarne una che raffigurava una veduta di Brockback Mountain. La comprò e la fissò nel rimorchio con quattro puntine dalla testa di ottone, una per ogni angolo. Fece un passo indietro e guardò la foto attraverso lacrime pungenti. Tutto nasce e finisce! A noi non resta nient'altro, nient'altro! Spero che questo tu lo sappia, visto che del resto te ne frega. Sei pazzo. In tutto, quante volte ci siamo visti? Quante volte siamo stati insieme in 20 anni? Quanto mi sono dovuto adattare alle tue paure? Hai il coraggio di chiedermi del Messico? E dimmi che mi ucciderai per aver cercato qualcosa che non mi dà? Restava uno spazio vuoto tra ciò che sapeva e ciò che voleva credere. Ma non ci poteva far niente. E se non la puoi risolvere, devi prenderla com'è. He was a friend of mine. Was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine. Testo tratto da Gente del Wyoming di Annie Proulx, edizioni Baldini Castoldi Dalai. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin.